quest'anno si è registrata una singolare protesta, insomma proteste quando si vota ce ne sono state in passato, ricordiamo Pelù e le matite o anche il rifiuto della scheda, ma in questo caso la protesta è ben più dignitosa e per una ragione ben più valida. Ne parliamo al telefono con Katie Latorre, che è appunto collegata con noi. Buonanotte Katie. Beh, intanto buonanotte, buona maratona Fujiko, buona maratona Montana. insomma, buona visione dei risultati. Sì, oggi abbiamo iniziato una protesta che credo sia importante e che solleva la questione di se sia una persona transessuale, transgender, in transizione. In molti seggi le file sono divise tra uomini e donne, le persone in transizione hanno un grave disagio, dove vanno? E quando si mettono in fila ovviamente sono costrette a un coming out anche se non lo desiderano, cioè quindi sono costrette a dire a chiunque, a far vedere che sono persone trans anche se non lo vogliono. Certo, ecco, come si è concretizzata questa protesta al seggio? Ma io personalmente al seggio 192 ho fatto mettere a verbale un reclamo al presidente del seggio in cui ho proprio diciamo reclamato la violazione del regolamento europeo sulla privacy, perché appunto la transessualità la disforia di genere è un dato sensibile. Ho detto, io sono una persona non binaria, non mi identifico nel maschile e femminile, quindi devo in qualche modo devono saperlo tutti. E ho reclamato appositamente perché domani chiederò la copia di questo reclamo e lo impugnerò davanti al garante della privacy. Lo scopo di questo ricorso di fronte al garante per la privacy sarà quello di giungere, si spera, a delle liste dei registri elettorali non più basati su maschio e femmina, ma in ordine alfabetico. Mi pare che l'ordine alfabetico sia di assoluto buon senso, mentre invece il maschile e il femminile può sembrare una sciocchezza, ma le persone transessuali in Italia sono decine di migliaia e non vanno molto spesso a votare per evitare appunto questo disagio. Oggi stesso Porpora Marcasciano, che in città conosciamo tutti, ha raccontato la sua esperienza al seggio, ha detto sorrisini, diciamo così, spallucce, sorrisini, essere guardata come una persona quasi aliena, non è piacevole. È una battaglia chiaramente per l'uguaglianza, per la dignità anche delle persone transgender, e non costa nulla. Certo, ecco, a volte appunto questa divisione all'interno dei seggi tra maschi e femmine serviva anche, come dire, per sveltire alcune file, però tu suggerivi appunto un criterio alfabetico, potrebbe funzionare come l'università, no? Se c'è bisogno di dividere i registri dalla A alla L e dalla M alla Z, una cosa di questo tipo? Ma mi sembra assolutamente cioè ovvio, anche perché ricordo a tanti che la divisione maschio e femmina a volte crea delle file, come i bagni uomini e donne, a volte ci sono, sì. Diciamo, io per esempio oggi ho visto che c'erano più donne in fila e la fila degli uomini era vuota, quindi noi donne aspettavamo in vano, perciò avrebbe avuto molto più senso in realtà una suddivisione sulla base dell'ordine alfabetico, perché paradossalmente abbiamo impiegato più tempo perché eravamo in quel momento più donne e non c'era nessun uomo, la fila degli uomini non poteva essere occupata da nessuno. Quindi ripeto, un po' come nei bagni, se fossero all gender, cioè per tutti i generi, probabilmente non ci sarebbero sempre i bagni delle donne con una grande fila, quelli degli uomini senza fila. Certo, e insomma staremo a vedere appunto cosa, come andrà a finire, perché appunto hai detto che impugnerai questa cosa. Speriamo che possano cambiare anche le cose nel nostro paese, anche se il momento politico forse non è dei migliori, no? Ma sì, questo prescinde dal momento politico, perché è una norma legata al regolamento sulla privacy. Io ricordo a tutti che la disforia di genere è un dato sensibilissimo, così come l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la disabilità, eccetera. Quindi, ripeto, chi è trans o transgender non, cioè non deve fare un coming out forzato anche quando non lo desidera, e questo è il motivo per cui decine di migliaia di persone trans non vanno a votare. Questo è il motivo per cui ho lanciato oggi questa diciamo informazione di un reclamo. Mi hanno scritto centinaia di persone trans dicendo: io non sono mai andata a votare, andrò a votare solo quando cambieranno i miei documenti, proprio perché sarei troppo in imbarazzo. Perciò certo, mi sembra il minimo per garantire ogni cittadino di poter come abbattere una barriera architettonica. Certo, grazie mille Katie. Buonanotte, buona maratona. Grazie.